punto, ma perché stavo facendo appunti? Forno, minchia, io non ho mangiato. Forno, pischi Sandro. Che tu sono tutto a pischi sta dicendo. Sì. capito, via. E ne sono ragazzi lottati comunque. Purtroppo non posso ascoltare più tanto perché ho la sua antenna, capito? Beh, comincia anche la partita con le 6. Io ho pubblificato le 6, non ne ho messo, ma qualcuno glielo fa anch'io. Antonio, non lo conosci Antonio, Antonio Monteoro, quello è. Però lavora comune, io e lui sì. E allora? Lo conosco, sono tipo l'altro, sì, sì, se mi ricordo. Via. Agappa. Claudio, tu la conosci a Maurizio Baciucchino? Maurizio Baciucchino, c'è la luna bianca. Maurizio. Ma è nome per quel cavolo? Guarda, è la guava. Cioè, fatto la guava della Sardegna, si chiama. C'è un nome strano, c'è fratello. Forse mai lo conosci. È morto. Stamattina o ieri sera, se non mi ricordo. Io ero pieno di una malattia, Non lo so. Se non vedo la fotografia, non lo so lui. Se mi consigliava Monduccio, fratello, o quella cosa del genere. Guarda che lo conosce, alla nuova Sardegna, qua. C'è Baffetti, lui. Il fratello di Monduccio, Come consigliava Monduccio? Capito che stai dicendo? Se è giocato il Monduccio sì. Ma se voleva rapporto magari. Era molto conosciuto, era. Un coso bevendo, non c'era per nessuno. Ma già 4-0 a Medigliotti. Sta allucinato, una spugna. Poi era proprio la più bella che aveva continuato. E fare la spugna ti lascia il segno. Non c'è niente da fare. No, sono vino bevendo, Vabbè, sempre bene. Vabbè, dico, sono vino. Come si chiama? No, Monduccio, aspetta. Non così, tipo, non mi ricordo il nome, Claudio. Comunque, se non lo vedo, lo conosci. Mondino? No, Perituccio. Io devo vedere, perché io conosco Monduccio, conosco Mondino. Ma Mondino lavora di farmi, quindi non c'entra niente, come lo so vedo. Ma non c'ha l'amico di Castellaccio, non va a meglio. Non so, allora, lui si chiama Perituccio. E fa i giornali tutti, ho capito. Cioè, sei anche responsabile. Non so dove la foto, Lucio, non mi dice niente il nome. Vabbè, non so che la conoscerà. Avrà visto molte volte. Vabbè, sicuramente sì. Sandro, chi è che mi ha chiamato? Stavo mangiando, ho sentito chiamare, chi è che mi ha chiamato? No, ti stava chiamando Luca. Vabbè. E poi ti stava chiamando Sandro, ma niente, mi ha chiesto se stava facendo bene, ha detto che aveva migliorato. E adesso lui è andato a caricare e dice che c'era dopo. Va bene, d'accordo. Non a dopo, vai a caricare Claudio, vai. E la cosa è finita, 5 minuti. Appa, lo siamo qua, Vai. Che ti ha preso? Beh. Ah, ecco. Thank you. da c'era, maledetta primavera. Siamo, andiamo tutti là, là, qua, bom, bom, bom. Là, ti voglio mettere in contatto con Antonello, però, con la roba là, con il PC. Io gli ho detto, però, prima, di volerti un po' quello tuo, se si può fare qualcosa, perché se si può fare qualcosa, cioè, la nostra non è molto, conviene un po', insomma, spingere un po' il tuo. E ti spiega molto molto meglio del Windows 7, poi secondo me fa tante cose molto meglio, ma prima di fare quello vedi un po' cosa ti può fare. Ne ho già parlato, io ti conosco molto bene questa persona, te. Adesso non mi ricordo il nome attivo del baracchino, comunque ti posso dire che è bravo, è molto molto bravo. Ho quella parola nel mio, bisogna cambiare la RAM, basta, deve venire qua a cambiarmi la RAM e buono. Guarda, Luigi, tu c'hai un giga di RAM, va bene su XP, hai poco disco, hai poca memoria, là. Fatta. E hai sbagliato, la memoria, una c'è un po' millenni la memoria, ho messo il computer. Quella lì deve cambiare. Disco. Aspetta la più grande. Guarda, Luigi, il disco ci devi farla, cioè praticamente lo devi cambiare, io ho cambiato del tutto, capito, Cla? Il mio, quello mio si è rotto e purtroppo tutti i dati che c'erano dentro li ho persi. Adesso se tu trovi interessante lì te la può salvare, lui lo mette in un altro disco a parte, potrà salva, potrà rimettere di nuovo in quel disco nuovo. Ma scomprendi o non scomprendi? E lui ci deve fare, così farà, perché a RAM, allora ho capito io, un giga di RAM su XP va bene la macchina, un giga. Per questi sistemi operativi nuovi, tipo Windows 7, 2 giga è poco, 4 giga è una bomba. Allora, vedevo già fare. Se stavo regalando un computer mio, nuovo, nuovo, solo che c'ha il monitor rotto. Allora mi sono messo i pezzi lì, tipo tastiera, batteria, tante cose là. L'ho sotto me lo porta, così l'ho svolto e mi prendo tutti i pezzi buoni. E mi sono finito nuovo. Si fa così, no? Forse se tu vuoi Windows 7 ti farai direttamente il case di quello là, quello suo, diciamo. E via, però dovrebbe viaggiare molto molto meglio di quello che c'è adesso, perché Windows 7 diciamo che è buono da una parte ma dall'altra no, là, su tante cose è un casino, tipo prendiamo l'esempio su Pantac, o canti o fuori musica. No, io devo cantare, cioè non devo cantare, devo validare. Appunto, invece Windows 7 per esempio io almeno non lo posso fare, non so perché però non si può fare. Un casino, è un casino. Poi a me mi ha fatto fastidio, una cosa, la gente che promette, no? Adesso una persona che sta qua nella mia zona mi ha promesso, cioè stavo cercando un modo uguale, perché stavo facendo una casa da zero, una villa, 0.000. Due manufali, di cui uno l'ha già trovato e ne insegna un altro. Chiama due mai due. Aspettate, ma chiama due e due. Come mai? Non so, ma non ti fa fare roba, chissà. Cosa vuoi fare? Infatti la signora la signora a cagarsi in nada. Mi sono arrivati gli ultimi cuccioli tra dei soldini, 4 e passa. 4.000. Sì, magari 400, 4 e 420, boh. La cassaide? Venga. Solo, hai detto 1.000 rotti tu? No, e qui ci sono rotti quella, per gennaio. Ah. Sempre se, ma accettano, perché è un casino lì, cazzo. Speriamo. Lì sono più di 1.000. Può essere 1.008, come possono essere 2.000, come possono essere 1.006, dipende, non lo so. Sì, Cattarino di nuovo lavoro. Uno può arrivare a 2005, non so, me l'ha detto. Ah, non so, sono contento. Sono contento. Già lavoriamo tutti, se no, quasi no. Non lo so, no. Quasi non sì. Non te se tagliamo via adesso. No. Chiamare. Ah, vabbè, sono imbucciata la vita, ecco. Vabbè, purtroppo, vedo, sai. Se abbiamo già la patente o caduia dentro, d'ora. Se qua la patente non ne ho, io andrò a tua, proprio primo. Ho fatto la domanda io, come generico. No, stavo cercando autisti anche. E mi ha controllato, la tipa mi ha detto, se hai la patente, eri primo. Perché la 90 faccio un conto. Mi sono giocato più di ultimo. E si conferma. Si conferma, sì. Adesso vediamo. Ma cosa faremo? Vediamo. Io ti sono con te. C'è la domanda. Sì. Mi ha detto che riprende domani mattina in 40 metri, quindi la frequenza è 7.000. 7.070, 7.050, 7.080. Ho capito. Quindi te ne sfarrello un po'. No, ma non mi si dà la tabella, tu me la raffi. Già te la già trovo. Mi sono etichettato. Non cerca su internet, mi muovo assai. Domani mi muovo, no, una giugana. Domani mi metto e me li cerco io. Mi scrivo, frequenza radio materiali. 40, 5, com'era? 20, 40, 80 metri. 20, 40, 10, 20, 40 e 80. 10, 20. Poi okay. Se c'hai l'SVL vecchia c'è la tabella dei delle bande riservate dai maturi, le tutte le pratiche, non c'è problema. Te l'ho mandato qua. Non te l'hanno mandato la tabella? No, solo la testata. La testata ti hanno preso. Yeah. Alla Gugliuppa. Che bello. Guardate, va bene, è allineata, a posto. Sì, vedi una bomba a mandare a tirare. No, l'ho fatto praticamente per mandare a tirare. 27 ce li ho le radio, lume, è uno specchio, cazzo mi ci stanno guardando le radio. C'ho tutti gli HF in avaria, ma chi non vedrà tu mai, adesso basta, adesso immaginate di tempo bello, salgo su, monto la G5 di vuola, collego direttamente, solo in a te, basta. Ecco la bocca, sono sacco di baracchini, vedi che escono bene perché stare con questi, con gli atleti a Faroce. Ma cosa ti volevo dire, Cla? Cosa non c'era più il bar, l'ha venduto, che si chiama, Camillo Ciupa. Venduto? Secondo me lo vai, gestione l'ha dato. Ah, vabbè, la gestione, là. Sto parlando. sua sono stato in parte di quel bar, no? È suo, è di gestione, il padrone è sempre lui, è suo, le mura sono sue lì, anche la pizzeria è tutto suo lì, non è in affitto lui, no, è tutto suo. Sì, vabbè, ma adesso la gestione, ma non ci può mettere i piedi lì, dentro il bancone, capito? No, dietro il bancone, no, dietro il bancone c'è Gennaro. E ragazzi, come si chiama? È Antonello Bombetta. Cos'è la Bombetta, Ci tu sul tipo, uno con delle buste. Tu vuoi tagliare a Trento? Parlo con Gennaro, Poi sono andato la mulica, no, fargli vedere le crocchette per l'una, se andavano bene. Ma tu si stavano bene, bumba. Scusa, ho trovato un amico e sono andato a averci un caffè lì. E stavo parlando, mi fa che c'era anche quel... non c'era qua più il bar, come si chiama? Bah. No, non mi ricordo il nome, vabbè, io mi ho capito. Che ha fatto in gestione. Ma lui è sempre... anche lui è socio con questa Bombetta, Gennaro, no? Gennaro è dipendente. Non è dipendente, ho capito. Abbiamo Gennaro, è un nuovo barista. Sì, ci sono state due sentive, è stato molto suo. Il comportamento che c'è con l'altra persona, io un sacco di volte ho lasciato perdere. No, una volta ci sono attaccati come piano. Con chi? Come va? No, sai, ma una volta la vita ha barotto i coglioni, nel senso che mi ha fatto la battuta, tu mi sono mangiato le rocchi, povero scemo, infatti io ricordo che non stavo più toccando niente, e poi se mangiavo qualcosina, cioè, mi bucavo senza il culo, non è un problema, ma come mi va a battere di rubarsi a me? Sì, guarda, io sono da... prima Vabbè, comunque io mi fece risetti, da qua sono entrato alla sera, risi e mezzo, risetti, quattro volte non ti ripartivo. E prendevo 1.600.000, 1.700.000, 1.800.000 al mese. Amici, ma comunque. Poi vado quando mi voglio io, mi arrivo detto quello che voglio io, no, aspettare con voi tra gli altri, cioè non so, vanno la giubana, vanno la giubana o vanno, ecco, ed è utilissimo, non sto lì a pagare le persone, sto qua, adesso vediamo se riesco che mi chiamano questi 4 mesi ma compagno una macchinetta, cioè una, anche una 600, una putinuda, anche una panda che già. Per cambiare discorso, sai chi è quello, sapete chi è quello che si suppone sia negato perché è così? È il fratello di Internet dei Vigili Urbani, quello di Sassa di Virgilio, Virgilio Burco. Siamo molto molto amici. Infatti mi ha telefonato per una cosa che mi doveva chiedere per quanto riguarda Mallaccio e me l'ha detto. Hai saputo di mio fratello, saluti fratello. Fabio sai cosa ho detto. E si suppone quello che pensa lui, che praticamente è divenuto malore, o si è visto in difficoltà, ha sganciato i piombi, ha cercato di risalire, ma evidentemente non ce l'ha fatta. Chissà indie, con quella maestralata che ha fatto quei giorni scorsi, grazie a Bovaccio. Mentre ne hanno tu. Ma che quello l'hanno trovato solo il cucile? Anche i piombi hanno trovato. Negativo. Mio fratello è un ufficiale dei Vigili Urbani, di un tenente, molto in gamba, Virgilio Furco, un po' grosso, alto, con i capelli intitolati. Che ha pagato, sto là, non si sa che abbiamo fatto. Stanno cercando, non stanno ancora cercando. Ma, ti ripeto, con quella maestrata che ha fatto in quei giorni, nella buccia di gioco, cruserete. Se non me l'ha spinto, mannaggia, cavolo. Ma è sera che ti grande fretta? Un anno in più di Virgilio, c'è 60. Acciappa. E magari anche un esperto di supo, ma purtroppo contro il mare Pinarelli non venuto a mano. Tutto, esperti siamo tutti, però una certa età non puoi fare il carto grasso, prima. Siamo sinceri, non ve la fai. E come Dio, all'età che ho, vabbè, sto facendo qualche partitella così, ma giusto per fare qualche corsetta. Tanto mi posso un'ora di campo, mi verranno i fatti. E quindi fai 10 minuti, 15 minuti, non di più, perché il fisico non lo mantiene più, non sento ragazzino, capite? Dunque, 60 anni, si innanda, la giura, di tre di Manzano, a far caccia sul barco, a cazzo ma lo così, un ventenne sì. Guarda, poi da solo si va mai, si va sempre in compagnia. Porca miseria, cazzo, lui già doveva anche sapere certe cose, ti capita un valore, ma cosa, se ha ragione, e la tesoriva, lui, ma carità, Ma infatti non hanno più speranze, non ha già detto fratello, stiamo aspettando che però lo trovino, perché insomma, lo devono trovare per forza, se no è successa qualche altra cosa, è impossibile che ti riesci da Punta di Gasino. Stiamo sondando tutto sino all'imboccatura di cose, di Badesi, Trinità da Lucca, tutto, c'è sempre di cotolo, nel terreno. Speriamo che lo trovino adesso. Un casino è duro. Un casino, perché se non lo trovano qualche altra cosa è successa, perché è possibile che non si trovi a meno il corpo, cazzo si deve trovare. Se non si trova nulla, chissà che cazzo di vino ha fatto, Infatti c'è la magistratura di mezzo. È un po' un problema, perché, insomma, il corpo si deve trovare per forza. È impossibile che non si trovi. Perché se non si trova il corpo, due sono le cose, o è riuscito a uscire dall'acqua, ma uscendo dall'acqua uno rientra, ecco, più o meno, Adesso bisogna vedere, ma lui in vettura è andato sul posto, come è andato? In vettura, in macchina, a fermare la rotonda. Vettura, in vettura, in vettura, l'ho trovato tutto tranne che a lui. Porca miseria, cazzo. Guarda che è un mistero, è un mistero. Di mistero si parla, però di misteri ce ne sono pure. Fabri, è quello. Dal mondo non è neanche entrato in acqua, e se è entrato benissimo ed è tornato a uscire. Fate la faccia a roba. Esatto. È strano, perché poi in questi giorni il mare era calmo. Capito, i primi due giorni ha fatto questo pezzo di terra, magari ce l'ha portato lontano, ma galleggia. La muta, dopo del mare calmo, non sembra galleggiare, hanno fatto la percezione, ma non che è rimasto da qualche attimo, magari un po' di tempo sott'acqua e si è pigliato lì, in qualche posto, qualche volta abbandonata, Ma l'avrebbero trovato, Fabri, l'avrebbero trovato. Infatti, perché poi c'erano i sommattatori, lungo e largo, il mare in questi giorni è calmo, non si è mai agitato, quindi il cazzo, ma se tu vuoi andare il mare è limpido, cazzo uno specchio, è strano, poi hanno visto tutti, hanno fatto tutta la spiaggia fino a rifare il cazzo a Punta Tramontana, a Badesi, poi sono i sommattatori, scoglio per scoglio, nulla, zero, sparito. No, io ho il dubbio che lui si sia allontanato a piedi, va tranquillo. Ma ha fatto la nostra scena per andare in acqua, ha già buttato le due cose in acqua, tanto ha fatto una corsa e aspettarlo per portarlo via. Esatto, proprio così. Quella secondo me è una messa in scena. Solo questo mare è nuovo, il tempo sta qua, solo barchettino che ci sono ogni sera lì, a largo pescando, gommone, a decine. Cazzo, nessuno ha visto niente, no? E fatti. Capo, facciamo girare, va Alessandrini. Maria, io che no, stavo ascoltando più o meno atterrato di cosa potrebbe essere successo, tutto lì, va bene. Buonasera Fabrizio, riesco a tirarti fuori a pelino perché sono delle scariche, evidentemente qualcosa di tempo. Ok, Claudio. Ehi, mi prendete un attimino che devo fare una fermata, 2 minuti. Va bene. Fabrizio, mi ascolti, buonasera. Sì. Ehi, capa, tu. Io la dico un ascolto, c'ho un po' di cuore, non capisco come mai, c'ho un cuore, ma devo tre. La cappa, ma lo ascolti, Assandro? No, c'ho un po' di QRM, ma la 3 a 5, tu, non riesco a capire, adesso cazzo QRM, non lo ascolto, credo, dove stiamo andando? Da Porto Torres. Ah, sì, l'altro giorno ascoltavo 2-3, ma non c'avevo QRM, adesso tu, ci ho messo cazzo QRM, non capisco come capito. Capito, tu, è strana la storia, perché il mare è buono, di luce, cazzo, l'avevo cercato, l'elicottero, le motovedette, ci avevo fatto c'era cosa a Paradiso. Cazzo, l'elicottero ha fatto il mare a 75 metri, il lungo e il largo, cazzo, non ho nulla. Dov'è, cazzo, ho rimasto pigliato sotto, in qualche posto, e rimane sotto. Perché altrimenti non si spiega, No, guarda Fabri, ti posso dire garantito al 100% io che faccio subo, una volta ti sganci i piombi, molli fucile tutto, vai a casa con la muta, vai tranquillo che... almeno che non è rimasto impigliato sotto qualche roccia, allora posso darti conferma, ma se no vieni a casa tranquillo, va. Sì, ma io so anche come funziona. Hanno fatto una volta accesa, una volta il tutto di piombi, lui si era tolto, la più è quella che lui ha avuto un malore lì, ha avuto la potenza di togliersi i piombi per essere più facilmente a galla. Però dove cazzo è successo? Lì non c'è il manco di metri d'acqua, quindi. E allora, ma è così Fabri. Dove stai volando Fabri? Sarà la veloce bassa, adesso la Budi Budi. Ah, capo. Va bene. E così Fabri, è così. Ma senz'altro, lui ha fatto la messa in scena, perché voleva andare via, non so dove. Poi è rimasto sotto il bidato. Ma se sarebbe rimasto sotto, Fabri, l'avrebbero trovato, capito? Infatti, perché quando hanno trovato il fucile, quelli sono state ore e ore, sono montatori del vigile fuoco che ci hanno fatto, hanno fatto tutto il pezzo, ma cioè, a lungo e largo lì, cioè anche andando a 30 metri dalla sabbia, ma niente, perché lì sono secchi, tutti gli scogli, e poi chissà che non vengono certo altri scogli lì. Infatti, ma se c'erano anche i sommozzatori, mi sembra strano che non l'abbiano trovato. fatto, mi sembra molto strano. Quello ha lasciato il mare ed è coi piedi per terra, va tranquillo. Ma sento molto strano. Questo per me era buono di giorni, cioè che ogni giorno, mattina e sera, le molto grosse facciamo. Tanto allora, avanti ieri ci aveva piccato, hanno fatto tutto questa cosa, il gommone, cercando lì le volte cioè, di appunto travanzare, andando per Bavesi, capo, era per nulla, cioè su, lì, lì sulla terra non ci è arrivato quel corpo. Capo, ho pigliato pure, qui c'è Tarigo, hanno lasciato la lettera, la Corsica, dove si abitano che cosa, le loro imbarcazioni, le loro pescherie, c'è nulla, tutto tace. E allora c'è qualcosa di furbizia, c'è qualcosa di furbizia in mezzo, dai. Aspetta, domani mattina alle 8:30 si alzano tutti quegli veri ultraleggeri che aspettano lì al campo di Passarò, eh? Le ho detto una peggio male, tutti si alzano a forza per andare a cercare il mare questa persona. Ma lui non li hanno trovati i vigili a fuoco, figuriamo, c'è la guardia costiera, quello ha lasciato il mare ed è piantonato, un piede per terra, va tranquillo. Certo, lui c'aveva anche un problema, non sapeva come eliminarsi la famiglia, serve funzionare, ma tu dici, come è una buona persona, innamorata da noi, bla bla bla, ma lui mi sta centinaia, magari tu sei una persona, donna, che ti può uscire per tristezza, e questo ha scelto di fare questo fatto così, piuttosto di affrontare la moglie, no? Sì, e niente di strano, si è fuggito con qualche altra persona e... voleva rimanere nell'anonimato, ma tante cose sono, in effetti così. Guarda, non vuole portare la famiglia, i figli, tutto quanto. Ha messo in scena e ha visto la stata una macchina, ci ha buttato il piombo e il fucile. E quello se la caricata in macchina, chissà che cazzo sono adesso. È proprio vero, ma sarebbe la beffa del colmo, la cipisse. Ma fai chiamare l'amico di Capotone, io non ho fatto comunque. Salvatore, sì, ma non voglio dire. Io sono qua, dai. Io ho capito, dai. Il mare pulcinoso. Va bene, da quanto stavo seguendo, adesso bisogna avere nel punto in cui si è trovato attrezzatura, che cosa, quanta profondità c'era, perché secondo la profondità magari c'è della corrente e se della corrente ti porta via e tu lo sai e a tu. Io Sandri, però c'erano trovato i piombi e il fucile e non c'erano neanche 2 metri d'acqua, dai. Mi sembra molto molto strano, mi sembra. Senz'altro quello ha fatto qualche cazzata di fuggire con qualche altra persona, che cazzo ne so io. Ho capito, 2 metri d'acqua, lo so, però ci sono tante cose da valutare, capito? Tante cose da valutare, bisogna vedere se poi magari lui è rientrato in acqua solo con la muta, magari doveva recuperare qualcos'altro, e tanti punti oscuri. Capito. Logicamente tutte supposizioni. Sì, infatti sono tutte sopra gestioni, però c'è anche il fattore di dire che c'era il vigile del fuoco, hanno scandagliato mare e monti e non hanno trovato nulla. Almeno il corpo si doveva trovare se lui sarebbe annegato, capito? Perché quando ti sgancia i piombi, tu sai benissimo, quando sgancia i piombi la muta stessa ti riporta a galla, ma a meno che non sia incagliato sotto qualche scusa, ma hanno scandagliato tutto i vigili del fuoco, capito? E sono arrivati anche vicino a Manisi, non penso che capita questo corpo di nuovo 60 anni, no? Non è che sia un ragazzino, è sempre l'uomo dei 60 anni, capito? Si sarebbe trovato, ma non ha trovato nulla, nulla di nulla, penso un po'. lo so, però come tu sai, mare è mare, c'è poco da fare. e quindi ci sono tante supposizioni che uno si mette. Logicamente la prima cosa è la ricerca, vedere se ci sono tracce, se ci sono cose da poter fare, diciamo, un resoconto più o meno della situazione. Però sono capitati molti casi che c'è stata della corrente, li ha portati via, e per dire, da corrottore ce li hanno trovati a Marrizza, cioè la corrente è maledetta in mare. Sì, sì, veramente d'accordo con te. Due sole cose, o la corrente se l'ha portato via, o viceversa, però stiamo di piedi per terra, vai tranquillo. Riprendi Fabri. Ma secondo me è così, nell'arte la corrente che ci si è fatto via a un certo punto, perché l'hanno cercato, le imbarcazioni sono andate in punta di Gazzino, e cioè le ricerche le hanno cominciate dopo 3 ore, più o meno, capi, qui non vedo che cazzo vi risate, io vorrei già in Liguria. E infatti, poi ricordiamoci che la corrente ti spinge sempre nella riva, non è che ti porti in alto mare. Cerca sempre di spingerti in riva, tutto qua. Ma è un mistero, Fabri, un mistero. Ma in quei due giorni c'era dentro in terra, ti portava all'interno, non è che ti portava in riva. Però, cazzo, essendo calmo, tutte queste imbarcazioni, le cose, cazzo, non vedo una cosa galleggiare, è mai strano, poi non ci sono questi grossi scogli nelle marine rai, non sono scogli che hanno delle grotte, delle cose, sono scogli abbastanza piatti, io conosco bene anche quella zona, perché ci vado, ci andavo a pescare quella zona, e gli scogli non è che abbiano queste grandi sorprese di buchi contro buchi, sono scogli piatti, ecco. Infatti, è molto strano, perché anche se la corrente l'ha portato via, l'avrebbe trovato, galleggiando, maleccato, cazzo, da lunedì non è mai agitato, cazzo, era un cazzo spicchio, ma così muoveva. Infatti, no, non mi stava. Guarda, io ho quel dubbio del presentimento che lui sia fuggito con qualche altra persona, va tranquillo, perché se fosse stato in mare l'avrebbero trovato. Non oggi, non domani, non dopodomani, ma l'avrebbero trovato, va tranquillo. Infatti, poi cazzo, per di più, è un posto del mare, è calmo, c'è il clima raccato questi giorni, quindi la gente usciva con mare, usciva a farsi giornate, quindi lui aveva decine, cazzo, in acqua, anche lontano, e nessuno ha avvisato niente, perché secondo me non c'è niente. Appunto, perché non c'è niente. Se fosse stato il corpo, si sarebbe visto tranquillo, guarda, no, Fabri, non te stiamo lì a girare la finestra. Se lui sarebbe stato in mare l'avrebbero trovato, o vivo o morto, vai tranquillo. Cazzo, dove magari si è scappato in qualche paese dell'estero o qualche signorina? E guarda, per me molto probabilmente lui è andato via con qualche altra signora, signorina, non so chi sia. E ha fatto tutta questa messa in scena per tappare un po' gli occhi alla moglie, ai figli e compagnia bella, dai, tutto lì. Secondo me è così, ci sono due alternative, o quel corpo veramente sotto, ma lì il cazzo non è tutto, non c'è neanche quelli lì, poi sono andati i vigili del fuoco gli scogli, anche cazzo a 10 metri agli scogli, il vito, il lungo e il largo, nulla, sono andati alle secche, non finne, zero, è sparito, capito? Guarda, non posso dire una cazzata degli squali, perché se sarebbe stata la zona di squali, abbiamo detto, niente di strano che se l'abbia mangiato lo squalo. Siccome squali non li abbiamo, perlomeno nella nostra zona, non posso dire neanche quello. Posso dirti solo che quello è con i piedi per terra, tranquillo, vai. Vabbè, qualche squalettino piccolo già lo becca ogni tanto, gli diceva a Dinara, qualche pesca, dice, ma sono gli squalettini piccolini. Abbiamo queste squali che già c'era l'uomo, dai, sono piccolini, innocui, non abbiamo gli squali che ci sono in diverse altre zone, dai. No, il dubbio è quello. Per me lui non si tratta né di malore né di niente. Lui ha scacciato il piume, ha lasciato fuggire lì, ha fatto quella messa in scena e è partito a se ne. E auguriamoci che sia così, che se così è buono, vai. Avrà fatto la sua scappatella, diciamo. Perché per il peggio e peggio meglio che, si, che vada bene, che vada così, dai. Si guarda, che la moglie no, fa, perché appena io morto, cazzo me lo vede, che si arriva male la qualche altra parte. Però se che lo sai, cazzo, la famiglia ci pensa, si spesa se per male. Quello è vero, e poi il mare è così, il mare è bello allo stesso tempo e anche brutto, perché ti riserva tante di quelle sorprese, guarda che. Ma comunque, è un mistero, Fabrino, un mistero, io non ci credo che sia morto, perché ma come l'ho trovato, Fabrino, dai. Cazzo, non so, non ci fosse la balena di Pinocchio. E se l'ha mangiato la balena di Pinocchio, ma lei è nella faccia della balena, che c'è la Pinocchio. E allora, sarà dentro la faccia della balena con la candela accesa. Vabbè, Claudio, anzi, hanno mangiato, per esempio. No, c'è un telefono, sì. Sì, su cosa facevo, il conto 40-80. Stasera ero in 80 metri. No, stavo facendo un telefono di lavoro per domani mattina. Cosa sto dicendo? Era in 80 metri che sto facendo un po' di punteggi, ma poi sono stufato. Ho lasciato a Gian Antonio. Gli altri mi sembra che siano tutti in digitale, perché la propagazione ce lo schippi molto corto e quindi è un casino. E Sandro non c'è più. Sandro, grazie, allucinante. Allucinante, no, a momenti lo fa, a momenti no. Il microfono. Ma il microfono quale è? Il 200. Eia, il 200. Me lo sento. Ma non ce l'hai sopra la radio, attaccato alla radio, dove è sto microfono? È spostato circa un 20-30 centimetri, è sempre nella solita posizione in cui l'ho sempre usato, a 20-30 centimetri staccato. Perché non è un innesco, Sandro, è un rientro di RF che è diverso, c'è qualcosa che sta rientrando, capito? Non è un innesco del microfono, che sta innescando il microfono, sta fischiando il microfono. Si sente proprio che è un rientro di RF, è diverso. C'è qualcosa che sta disturbando la tua modulazione. Può darsi anche la colonnina del computer, può darsi un telefono in carica, può darsi qualsiasi cosa che hai lì vicino. Vabbè, computer, cosa c'è? C'è il telefono vicino, però non sta caricando. No, è da oggi che me ne sono accorto. Da oggi. E qualcosa comunque sta rientrando all'interno della radio con la tua modulazione. Non è il microfono non c'è niente. Si sente proprio che è un rientro di RF, perché non è continuo. È come agganci, te lo porti un pochino appresso, poi va a sparire. Capito, Sandro? E Babri, io sono d'accordo o non d'accordo con voi, perché intanto conosco molto bene il fratello e me ne ha parlato molto bene. è una persona, a parte il fatto che è un professore, è una persona che è molto attenta un po' a tutto. Lì è successo qualcosa, o un malore, e magari lì a due metri dalla riva è incastrato sotto qualche cosa e non l'hanno visto, come già è capitato a quello di Cagliari, che era una settimana, anzi più di 10 giorni, a bagno a 50 metri dal porto, cioè non quello di, quello di Cagliari, sì, Santa Giusta, a 50 metri dal porto, e non lo trovavano, ed era sotto, sotto dei massi, incastrato. Quindi, o è lì nelle secche, è lì comunque, se è morto è lì, vai tranquillo che è lì, non ha fatto nessuna pazzia e non è da nessuna parte, è lì in acqua lui, è lì in acqua, perché due sono le cose, come ha detto Antonio, o ha buttato il fucile e i piombi, visto che l'acqua era bassa, poi si recuperava come fanno tutti e si ragganciano, e a bagno non si è mai buttato, quindi può essere una cosa, oppure lui come si è buttato in acqua, è successo qualcosa, un malore, qualcosa, mi sa di malasofia. Questo è il mio parere, poi chiaramente ci vuole il parere della giustizia e di chi si intende di queste cose per capire esattamente cosa è successo. Anche tu hai ragione, però ti ripeto che lì si è applicato due sere in quel pezzo dalla torretta fino ad arrivare al Toluca, solo il pezzo l'hanno scandagliato tutto vicino al fuoco, no? I subacquei, capito? Quindi lo scoglio non ce n'è, nella secca non ce n'era, e quindi strano, non lo so. Poi sanno che a volte il cervello umano, uno è 40 anni, cazzo di luce, perfetto, bla bla bla, poi trovi una persona, una donna, che ti fa scelto di te, se non è primo, capito? Se non si trova il corpo, uno si può fare anche questa idea. Sono d'accordo con te, infatti, fino a quando non si trova il corpo c'è da fare pochi, pochi discorsi, capito? Tu sì, hai problemi con il microfono, io ho problemi con la radio addosso. Va bene, avanti Antu. KK. È così. E poi io, guarda, tu lo sai che lo sport faccio io, subo, conosco le zone, luce che abbiano buchi, furie e cose non ne ho mai visto, la verità si dica. Così che ti posso dire, sono luce basse, no. Niente di particolare che ti possano trattenere dentro qualche buco di luce, sono luce basse. Piatte e basse, poi sono molto molto distante dalla riva, diciamo, per arrivare alle luci. Vale. Questa è la mia esperienza della zona. Vabbè, tu già la conosci quella zona, quindi noi ci siamo molti discorsi da fare. Babbo, dai, io signore vi lascio, che sono le 10:20. Per voi domani è festa, ma per me mi devo stare presto nel lavoro. Un abbraccio a tutti, ciao Fabri, fatti sentire, ciao Sandro, ciao Antonio, Luca, se sei ancora all'ascolto, e anche eventuali colleghi CB che fossero all'ascolto. Ciao a tutti, buonanotte, ci sentiamo domani, ci aggiorniamo domani. Salutone Claudio, ne approfitto anch'io a chiudere che anch'io mi riposo. Dai, ciao Fabrizio, ciao Sandro, ciao Luca e anche a te Claudio, eventuali ascoltori. Va bene, ci aggiorniamo tutta domani. Ciao ciao, buonanotte a tutti. Okay, ciao Claudio, ascoltore, ci sentiamo. Vabbè Claudio, li saluti i tuoi colleghi che ci stanno ascoltando. I colleghi? Colleghi da rimasto. Già passo a salutare loro. Io più voglia, sono stanco, adesso lavoro un po' ma so. Ma non c'è più nessuno, riprende domani mattina alle 8, ho capito? Riprende domani mattina alle 8. Vabbè, dai. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao Sandro, Fabrizio, Antonio e compagni. Ciao. Claudio, ragazzi, ai tuoi colleghi che sono qua ascoltati, capito, che ti ascoltano sempre e ti stanno controllando le cose di comporti. Ti ci dico a pigliarsi dai culo. Andiamo là, ci sentiamo qua, buonanotte, ciao e alle prossime. Ciao Fabrizio, non ti saluterai perché non c'è. Oggi c'è un extra, boh, hanno inaugurato quello, non so che cos'è, lì il centro sportivo Monteoro. L'hanno chiamato a fare un extra. C'è la gente che dice, papà vieni, mi ha telefonato, vai dimmi, ma ci vedi già il zinco, già vieni. Non ho sentito anche gli amici miei, infatti, ok, era fatta. Vabbè, là, ci sentiamo, buonanotte, la Russia. Ciao, ciao, ciao a tutti, buonanotte. Ciao Sandro. Ciao Claudio, ciao Antonio, ciao Fabrizio che mi ascolti, buonanotte, alle prossime. Buonanotte, notte. Ciao Fabrizio, ti ho detto buonanotte Sandro, ti do la buonanotte anch'io. E tutte le prossime leggi. Ciao Claudio. Allora, ciao, ci sentiamo alle prossime. Alle prossime, Fabrizio, ciao ciao.